Vangelo secondo Marco, capitolo primo. Principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, figliuolo di Dio. Secondo che gli è scritto nel profeta Isaia, ecco, io mando avanti a te il mio messaggero a prepararti la via. V'è una voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, addrizzate i suoi sentieri. Apparve Giovanni il Battista nel deserto, predicando un battesimo di ravvedimento per la remissione dei peccati. E tutto il paese della Giudea e tutti quei di Gerusalemme accorrevano a lui, ed erano da lui battezzati nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Or Giovanni era vestito di pel di cammello, con una cintura di cuoio intorno ai fianchi, e si nutriva di locuste e di miele selvatico, e predicava dicendo, «Dopo di me viene colui che è più forte di me, al quale io non son degno di chinarmi a sciogliere il legaccio dei calzari. Io vi ho battezzati con acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo». Ed avvenne in quei giorni che Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. E ad un tratto, come egli saliva fuori dell'acqua, vide fendersi i cieli e lo Spirito scendere su di lui in somiglianza di colomba. E una voce venne dai cieli, «Tu sei il mio diletto figliuolo, in te mi sono compiaciuto». E subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase per 40 giorni tentato da Satana, e strava tra le fiere e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando l'Evangelo di Dio e dicendo, «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete all'Evangelo». Or passando lungo il mare della Galilea, egli vide Simone e Andrea, il fratello di Simone, che gettavano la rete in mare, perché erano pescatori. Gesù disse loro, «Seguitemi, ed io farò di voi dei pescatori d'uomini». Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Poi, spintosi un po' più oltre, vide Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che anch'essi in barca rassettavano le reti, e subito li chiamò, ed essi, lasciato Zebedeo loro padre nella barca con gli operai, se ne andarono dietro a lui. E vennero in Capernaum, e subito il sabato Gesù, entrato nella sinagoga, insegnava. E la gente stupiva della sua dottrina, perché egli li ammaestrava come aventi autorità e non come gli scribi. In quel mentre si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale prese a gridare, «Che v'è fra noi e te, o Gesù Nazareno? Sei tu venuto per perderci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù lo sgridò, dicendo, «Ammutolisci ed esci da costui!» E lo spirito immondo, straziatolo, gridando forte, uscì da lui. E tutti sbigottirono, talché si domandavano fra loro, «Che cos'è mai questo? È una dottrina nuova! Egli comanda con autorità perfino agli spiriti immondi, ed essi gli ubbidiscono». E la sua fama si divulgò subito per ogni dove in tutta la circostante contrada della Galilea. Ed appena usciti dalla sinagoga, vennero con Giacomo e Giovanni in casa di Simone ed Andrea. Ora la suocera di Simone era a letto con la febbre, ed essi subito gliene parlarono, ed egli, accostatosi, la prese per la mano e la fece levare. E la febbre la lasciò, ed ella si mise a servirli. Poi, fattosi sera, quando il sole fu tramontato, gli menarono tutti i malati e gli indemoniati, e tutta la città era radunata intorno all'uscio. Ed egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie, e cacciò molti demoni, e non permetteva ai demoni di parlare, poiché sapevano chi egli era. Poi la mattina, essendo ancora molto buio, Gesù, levatosi, uscì e se ne andò in un luogo deserto, e quivi pregava. Simone e quelli che erano con lui gli tennero dietro, e trovatolo gli dissero, «Tutti ti cercano!» Ed egli disse loro, «Andiamo altrove, per i villaggi vicini, ond'io predichi anche là, poiché è per questo che io sono uscito». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe, cacciando i demoni. E un lebbroso venne a lui, e buttatosi in ginocchio lo pregò, dicendo, «Se tu vuoi, tu puoi mondarmi». E Gesù, mosso a pietà, stese la mano, lo toccò e gli disse, «Lo voglio, sii mondato». E subito la lebbra sparì da lui e fu mondato. E Gesù, avendogli fatte severe ammonizioni, lo mandò subito via e gli disse, «Guardati dal farne parola da alcuno, ma va, mostrati al sacerdote ed offri per la tua purificazione quel che Mosè ha prescritto, e questo serva loro di testimonianza». Ma colui, appena partito, si dette a proclamare e a divulgare il fatto, di modo che Gesù non poteva più entrare palesemente in città, ma se ne stava fuori in luoghi deserti, e da ogni parte la gente accorreva a lui.